Al-Qaeda nel Maghreb islamico, ucciso il numero uno. Libia, la tregua adesso la vuole l'Egitto. Stati Uniti, Trump contro tutti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Abdelmalek Droukdal a été tué lors d'une opération de l'armée française au nord du Mali, près de la frontière algérienne. We have a constitution, and we have to follow that constitution, and the president's drifted away from it. The Cairo Accord, it begins with a ceasefire on June 8th. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, anche quest'oggi a ruotare il mappamondo per raccontarvi fatti e notizie che arrivano al di fuori dei confini italiani. Per farlo con me ci sono Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, in assistenza Claudia Schiattone e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, SMS e WhatsApp è il numero da utilizzare per porre domande e commentare i temi che vi sottoporrò in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Vi ricordo anche i social, la pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, tenete d'occhio i due account che sono Jumpaz, ovvero Nessun Luogo 24. Il primo tema che vi sottoporrò, la morte di Abdelmalek Droukdal, ucciso per mano francese, era il numero uno di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Vi racconteremo chi era il numero uno di questa formazione jihadista, ma soprattutto che tipo di struttura era Al-Qaeda nel Maghreb islamico, fondata nel 2007 e che ha sparso terrore in una zona molto molto ampia del Sahara, ma anche del Sahel. Poi andremo in Libia, perché a un certo punto si è infilato il generale Al-Sisi nel pantano libico, ha dato uno stop sostanzialmente ad Haftar, gli ha fatto accettare un piano di pace. Haftar adesso chiede un cessate il fuoco assieme ad Al-Sisi. Sarraj dice no, ha intenzione di riprendersi la Libia. E infine Stati Uniti, scudi repubblicani si levano contro Trump. Tutto questo da commentare al 349-238-6666 mentre noi sfogliamo i nostri dossier. Stavo pensando che dovremmo istituire un premio per il WhatsApp più veloce che arriva qui in redazione. Valeria Bernardi mi guarda sbigottita, però potrebbe essere un'idea. Detto ciò, il primo dossier che vi sottopongo è quello che riguarda il Brasile. Perché? Perché il governo guidato da Jair Bolsonaro ha deciso di smettere di pubblicare quelli che sono i dati complessivi dell'emergenza coronavirus, limitandosi a fornirle solo i bilanci giornalieri. Il Guardian, prestigioso quotidiano britannico, ha bollato questa scelta come straordinaria e ha suscitato l'ira di molti critici, nonché la dura reazione anche delle autorità sanitarie regionali brasiliane. Secondo la maggior parte degli analisti, l'idea di Bolsonaro è nascondere quello che è l'impatto più generale, devastante per il grande paese sudamericano del Covid-19. Secondo molti, il presidente Bolsonaro cerca appunto di nascondere l'impatto. Il tentativo autoritario, insensibile, disumano e antietico di rendere invisibili i morti di Covid-19 non avrà successo, è stata invece la risposta del Consiglio Nazionale dei Ministri della Salute. Peraltro Jair Bolsonaro sembra sempre più sulle orme del presidente statunitense Donald Trump. Ha da pochissimo detto: gli Stati Uniti hanno lasciato l'OMS e noi stiamo pensando di farlo in futuro. O l'OMS lavora senza pregiudizi ideologici o lo lasceremo anche noi. Non abbiamo bisogno di estranei che esprimano giudizi sulla nostra salute, ha detto Bolsonaro ai giornalisti in Brasile. Ricordo che secondo le proiezioni e i dati della Johns Hopkins University, il Brasile è il secondo paese al mondo per numero di casi, quasi 700.000 dopo gli Stati Uniti, e conta oggi 36.455 decessi. Il secondo dossier ci fa restare in Sud America con una notizia alquanto inquietante, perché oltre 400 giornalisti argentini, stranieri, che chiesero l'accreditamento per i vertici ministeriali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e del G20 che si è svolta a Buenos Aires nel 2017-2018, sono stati schedati dai servizi di intelligence del governo di Macri, ex presidente del paese sudamericano. I dossier riguardano vari giornalisti, TV, radio, agenzie di stampa. Sono stati rinvenuti in una cassaforte da Cristina Camano, che è il commissario governativo dell'Agenzia Federale di Intelligence, e sono il materiale per una denuncia di spionaggio ai danni dell'ex presidente. In più pare che l'ex numero uno argentino abbia schedato anche personalità della politica, dello spettacolo, dell'imprenditoria, oltre che 100 docenti universitari. Nei confronti dei giornalisti erano state create una serie di cartelle con una specie di etichetta che diceva esprime posizioni contro il governo, oppure mostra tendenze dietrologiche, è vicino al peronismo, eccetera. Insomma, una schedatura a tutti gli effetti, il cui utilizzo, francamente, non possiamo saperlo fino a quando almeno l'istruttoria non sarà consegnata alla magistratura e la magistratura deciderà se indagare ulteriormente. E poi in Israele, perché alcune migliaia di cittadini israeliani hanno manifestato contro il piano del governo di annettere parti della Cisgiordania, lo sapete è un po' l'obiettivo principe di Benjamin Netanyahu. Come al solito i cittadini israeliani hanno manifestato in una maniera molto molto rigorosa, rispettando tutte le distanze di sicurezza, l'utilizzo della mascherina. In un'analisi pubblicata dal sito politico.eu si sottolinea che in realtà ancora non si sa se Netanyahu abbia intenzione di mettere la quinta e davvero annettere parte della valle del Cisgiordano, del Giordano, scusate, quindi la Cisgiordania. E secondo molte interviste, i cittadini israeliani contrari a questa mossa di Netanyahu hanno paura di un rinvigorirsi delle ostilità e delle tensioni, se non addirittura di guerra aperta fra palestinesi e israeliani stessi. L'unico forse che potrebbe supportare in maniera decisiva la decisione di Netanyahu è il presidente statunitense Donald Trump. Arrivano i vostri messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ve ne darò conto, non prima di darvi conto di una protesta che sta avvenendo in Siria, nella provincia di Suweida. In realtà ha avuto luogo, le prime avvisaglie sono avvenute domenica, e avviene in un momento per l'economia siriana che sta toccando davvero il fondo. La lira siriana, la valuta locale, vale 0,002 dollari, ma l'altro punto importante è che queste proteste arrivano in un momento e in una provincia che da sempre era a favore del presidente Bashar al-Assad. Infatti la provincia di Suweida è a maggioranza drusa ed è sempre rimasta fedele a Damasco durante i lunghi anni della guerra civile. Vedremo, è troppo presto per dire se si stia incrinando qualcosa anche nella Siria più fedele e devota a Bashar al-Assad. Continueremo naturalmente a tenervi aggiornati e a seguire questa interessante evoluzione. Questi i nostri dossier internazionali. Ci sono un po' di messaggi riguardanti Bolsonaro, qualcuno scrive addirittura è veramente un pagliaccio guidato da Trump, tutti e due finiranno allo stesso modo, saluti. Così un ascoltatore: Trump non mi piace per nulla, eppure su tante cose ci vede bene, il trombone. Così irriverente un ascoltatore che però come dire, attribuisce a Donald Trump anche una certa lungimiranza evidentemente. E qualcuno ci chiede: non pensate che Bolsonaro approfitti del Covid-19 per controllare le favelas, utilizzandolo miserabilmente come strumento cinico e deprecabile di controllo? In realtà, a ben vedere, gentile ascoltatore, è quello che è accaduto nelle ultime settimane, che sono proprio le mafie locali e le gang di trafficanti che controllano le favelas e fanno rispettare distanziamento sociale e mascherine. Lo abbiamo raccontato in una puntata di Nessun Luogo Lontano, sottolineando questa incredibile situazione in cui gang criminali si sostituiscono allo Stato brasiliano in quelle zone più emarginate, che sono appunto le favelas. Questi i nostri dossier, 349-238-6666 per voi. E adesso, Valeria, andiamo in Mali. Inna Firenze takdibu alaykum حينما تزعم أنها تحرص على وحدة مالي بينما الدلائل كلها تشير بوضوح إلى العكس من ذلك وتؤكد أنها أكبر حريص على تقسيم البلد Se andrete a scaricare il podcast di questa trasmissione, riascoltate questo breve frammento, la voce di Abdelmalek Drugdel, scusatemi. Ecco, non lo ascolterete più perché, secondo varie fonti giornalistiche, l'emiro, il capo di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, sarebbe morto. Il fatto è avvenuto a Talandak e Salit, nord-est del Mali, 80 km al confine con l'Algeria. In queste sabbie sperdute, in quel gigantesco buco nero che sa essere la fascia sahariana, ha trovato la morte il cinquantenne algerino, capo di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, ucciso il 3 giugno, la notizia è arrivata da pochissimo, nel corso di un'operazione delle forze speciali francesi. Non si sa moltissimo di questa operazione, che arriva a 13 anni dalla fondazione del gruppo jihadista. Stavo leggendo un'indiscrezione riportata da Agenzia Nova. Secondo Sara Media, che è un sito locale, il fuoristrada sul quale viaggiava il leader jihadista sarebbe stato centrato da missili lanciati da un drone, il tutto con il supporto degli elicotteri francesi, i quali avrebbero anche coperto poi un'operazione a terra delle truppe francesi che avrebbero eliminato altri combattenti. Secondo una fonte contattata da Jeune Afrique, che è il settimanale francofono che è molto molto interessato e racconta con dovizia di particolari le vicende africane, da settimane lo stato maggiore di Al-Qaeda nel Maghreb, infatti nell'attacco sono rimasti uccisi anche 4 suoi stretti collaboratori, faceva la spola tra sud dell'Algeria e nord del Mali. Evidentemente le forze speciali francesi hanno atteso un momento propizio per evitare forse anche di colpire in territorio algerino, si diceva fosse in Tunisia, qualcun altro diceva pensate addirittura in Libia. È l'ultimo di una lunga serie di jihadisti che si erano forgiati negli anni 90, negli anni terribili della guerra civile algerina. Lui era un artificiere, pensate, del GIA, il gruppo islamico armato, era uno che si era fatto le ossa ai noi e agli algerini in quegli anni terribili. Cerchiamo di capire meglio chi era questo jihadista e soprattutto che cosa comporta la sua morte, cosa accadrà ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Tutte domande alle quali sa certamente rispondere Luca Raineri, ricercatore alla Scuola Sant'Anna di Pisa e che da tempo studia appunto le dinamiche legate al terrorismo nella zona. Raineri, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, che cosa cambia per Al-Qaeda nel Maghreb islamico con la sua decapitazione? La sua decapitazione, come dicevi giustamente, comporta la cesura di un periodo. Drugdel era l'ultimo dei leader di provenienza algerina per Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Era un leader che aveva contribuito in maniera determinante, in prima persona, alla transizione dei movimenti jihadisti algerini da una focalizzazione prevalentemente nazionale a una focalizzazione invece transnazionale, a cui proprio Drugdel aveva dato un contributo decisivo. A partire dalla fine degli anni 90 e dagli inizi degli anni 2000 si discosta progressivamente dai gruppi algerini, fra l'altro anche in virtù di un ragionamento politico pragmatico che vedeva in questi gruppi un eccesso di violenza che quindi non sarebbe stato utile alla causa jihadista transnazionale, e via via rifocalizzarsi su un'area più ampia che non comprendesse soltanto l'Algeria ma in uno scacchiere molto più ampio. Ricordiamo che Drugdel in prima persona aveva dei contatti con alcuni dei più eminenti leader di Al-Qaeda, probabilmente non con Osama Bin Laden ma certamente con Zawahiri, Zarqawi, sì. E quindi altri leader di grande importanza. Era l'uomo dei contatti, delle congiunzioni transnazionali di un gruppo che però tuttavia è andato radicandosi sempre più lontano dall'Algeria, sempre più lontano dalla sua area di controllo e sempre più profondamente immerso nelle dinamiche del Sahara e del Sahel, e quindi con un perno che ruotava intorno al Mali e progressivamente anche al Burkina e al Niger. Sì. Prego, prego Luca, vai avanti, concludi assolutamente il ragionamento. Dicevo per concludere che sì, la sua dipartita quindi segna una cesura definitiva, probabilmente con le basi arretrate algerine, in particolare quelle nascoste nella Kabilia, è ormai sicuramente dal 2013 e poi in maniera ancora più accesa dal 2018 che le autorità algerine hanno proclamato una vera e propria guerra al jihad in maniera ancora più sofisticata e con un dispiegamento di mezzi ancora più imponente, e questo probabilmente comporta un ridispiegamento abbastanza peculiare con un'entità che si chiama Al-Qaeda nel Maghreb, ma che nel Maghreb è sempre meno presente e che ormai è pienamente Al-Qaeda in Africa occidentale. Sì. L'analisi, la voce di Luca Raineri, ricercatore alla Scuola Sant'Anna di Pisa, per capire che cosa significhi questo colpaccio portato a segno dalle forze speciali francesi. Ricordiamo la massiccia presenza in tutto il Sahel, stiamo parlando di 5.000 uomini, operazione Barkhane in collaborazione col Mali, ma anche Burkina Faso e Niger fra gli altri. Una lotta contro tanti gruppi jihadisti, Luca Raineri, di cui Al-Qaeda nel Maghreb islamico è uno storicamente presente, il cui nome peraltro denuncia immediatamente l'affiliazione ad Al-Qaeda, un brand che negli anni passati era sicuramente molto forte, poi è arrivato lo Stato Islamico, che invece ha sedotto altri gruppi jihadisti. Ecco, a questo punto ti chiederei come si colloca adesso la competizione fra Al-Qaeda e Stato Islamico nell'Africa occidentale, più in generale nel Sahel, con questa decapitazione, e poi perché sono in conflitto i due gruppi? Sì, effettivamente la questione è molto pertinente, è una questione che rimane del tutto aperta. La sensazione è che Al-Qaeda si stia indebolendo ormai da molto tempo e che la decapitazione di Drugdel sia ormai un evento che conclude un'epoca, ma che di fatto non incide drammaticamente sulle capacità operative di Al-Qaeda nell'area. Il vero leader operativo, ovvero Abu Yahya el-Amman, era già stato eliminato dai francesi in un'analoga operazione nel febbraio 2019. Al-Qaeda rimane un brand, un'ideologia di riferimento per una costellazione di gruppi, ma che sono molto più legati a delle dinamiche tribali locali, quelle proprie dei Tuareg, quelle proprie dei Peul, ed è in questo contesto, probabilmente da un punto di vista di lettura locale, di competizione locale per lo spazio, per le risorse e per la visibilità politica, che si deve leggere la crescente competizione con il brand dello Stato Islamico, che progressivamente si è ritagliato uno spazio nell'area alle tre frontiere fra Mali, Niger e Burkina Faso. In quest'area, nei mesi, negli anni precedenti, sembrava sussistere una sorta di convivenza tra gruppi legati ad Al-Qaeda e gruppi legati allo Stato Islamico, convivenza che tuttavia negli ultimi mesi si è definitivamente deteriorata, con degli scontri molto violenti proprio fra i gruppi legati ad Al-Qaeda e i gruppi legati allo Stato Islamico. Un'ultimissima nota per concludere: alcuni osservatori sollevano il sospetto, l'ipotesi, che effettivamente la presenza di Drugdel in Mali potesse proprio essere legata alla necessità di un negoziato, per cui sono stati convocati i più importanti vertici regionali dell'una e dell'altra organizzazione, in modo da cercare di trovare una modalità di convivenza, di coabitazione più o meno pacifica. Questa potrebbe essere una delle ipotesi, ancora tutta da verificare, che spiegherebbero in effetti la presenza di Drugdel in Mali, che altrimenti resta per tutti gli analisti un vero e proprio mistero. La voce di Luca Raineri, ricercatore Scuola Sant'Anna di Pisa, esperto della zona. Luca, ti propongo di ascoltare questa fotografia, Al-Qaeda nel Maghreb Islamico, in 90 secondi. Al-Qaeda nel Maghreb Islamico, abbreviato ACMI, è un gruppo terrorista di matrice jihadista attivo nell'Africa settentrionale e occidentale. Nato dal gruppo algerino salafita per la predicazione e il combattimento, formazione attiva nella guerra civile algerina degli anni 90, ACMI ha assunto nel tempo un'agenda islamista più internazionale, diventando affiliato ufficiale di Al-Qaeda nel 2006. Il gruppo, oltre ai rapimenti, ha sempre utilizzato come forma di finanziamento le rotte di contrabbando di armi e stupefacenti che attraversano la regione. Sotto il comando di Abdelmalek Drugdel, emiro dal 2006, ACMI ha ampliato le sue attività in tutta la regione sahariana. Spinto dal desiderio di stabilire un califfato islamico in tutto il Nord Africa, il gruppo terrorista è riuscito a infiltrarsi efficacemente in tutto il Sahel, fino a raggiungere la Costa d'Avorio. ACMI ha stabilito inoltre solide relazioni con altre formazioni jihadiste come Boko Haram in Nigeria, Al-Shabaab in Somalia e Al-Qaeda in Yemen, con i quali scambia fondi, armi e informazioni. Nel 2013, forti contrasti fra la leadership centrale di Drugdel e i battaglioni meridionali di Belmokhtar, altra figura di spicco del gruppo, hanno portato alla scissione di ACMI e alla creazione da parte di Belmokhtar di un'altra formazione jihadista, Al-Muribitun. Nel 2012 ACMI ha assunto il controllo della ribellione Tuareg scoppiata nel nord del Mali. Per evitare la creazione di un santuario jihadista nella regione, la Francia è intervenuta militarmente. Ad oggi le attività militari dell'operazione Barkhane contano un ingente dispiegamento di mezzi e truppe che coinvolgono l'intero Sahel. Ed ecco Al-Qaeda nel Maghreb islamico con le sue ramificazioni in 90 secondi. Luca Raineri, c'è un ascoltatore che fa una domanda molto molto interessante alla quale confesso di non saper rispondere. Ti metto alla prova, è così a freddo. Cosa offre di più a livello di reclutamento lo Stato islamico rispetto ad Al-Qaeda? Evidentemente un ascoltatore in qualche modo sedotto anche dal tuo discorso, no? La potenza accentratrice dei due brand. Che cosa offre di più? È meglio combattere per le bandiere nere di ISIS o per la base, per Al-Qaeda? Ma in realtà parrebbe che lo Stato islamico si sia paradossalmente avvantaggiato del fatto che proprio negli ultimi mesi gli stati locali, il Mali in primis, e i loro sponsor internazionali, la Francia in primo luogo, abbiano in realtà accettato di procedere a un negoziato con gli attori che si richiamano alla sigla di Al-Qaeda. Ricordiamo che l'ultima apparizione pubblica proprio di Drukdel era effettivamente un messaggio in cui esortava i dirigenti maliani a impegnarsi seriamente in questo negoziato e a non dare prova di ipocrisia. Sì. Questa disponibilità al dialogo può essere stata letta da alcuni attori come una disponibilità in realtà al compromesso nei confronti di potenze giudicate naturalmente nemiche, sì, che ha in un certo senso avvantaggiato lo Stato islamico. D'altra, sì, parte lo Stato islamico sta dando prova di una modalità molto più coercitiva di quella di Al-Qaeda. Ancora per tornare un po' al tema del giorno, a Drukdel, sì, ricordiamo che Drukdel era noto per essere l'autore di suo pugno di una lettera che è stata poi ritrovata dai francesi quando sono state liberate le città che erano state occupate da Al-Qaeda nel 2012, in cui Drukdel esortava i suoi a dare prova di moderazione nell'implementazione della Sharia, rendendosi conto delle sensibilità locali. Sì. Ecco, in questo senso invece lo Stato islamico ha un approccio molto più coercitivo, molto più violento, per cui in realtà potrebbe anche essere lecito presumere che l'adesione allo Stato islamico non sia sempre così volontaria e così, come dire, basata su un'offerta, forse un'offerta che non si può rifiutare, ecco, certo, da parte, certo, degli attori presenti sul territorio. Certo. E Luca Raineri con quest'ultima risposta aggiunge un tassello importante in questo complesso mosaico che è quella fascia dell'Africa, e di questo naturalmente lo ringrazio. Lo ricordo, Luca Raineri è ricercatore alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Buona giornata Luca e buon lavoro. Grazie, buona giornata. E alla prossima, come sempre. Arrivederci. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Ci sono un bel po' di messaggi che tornano al capitolo Bolsonaro, magari ci torniamo tra pochissimo, perché fra poco, dopo l'informazione finanziaria, dobbiamo voltare pagina. In realtà voltiamo pagina, risaliamo di qualche migliaio, centinaio di chilometri attraverso il Sahara, andiamo sulla costa libica, perché a dispetto dell'appello alla pace che arriva dal generale Haftar, sostenuto in questo appello dal generale Al-Sisi, beh, Serraj non ne vuole proprio sapere. Nel mirino c'è Sirte, la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Lo anticipavamo, dal fascia sahariana viaggiamo verso nord, andiamo sulla costa perché è lì che si combatte, è lì che si gioca la partita libica. Si gioca in Libia, ma si è giocata anche al Cairo, perché a un certo punto irrompe nel complesso mosaico libico la mano, o il piede se preferite, di Al-Sisi. Il piede nel senso che si mette un po' di traverso e dice ad Haftar: attenzione, proponiamo un bel cessate il fuoco e tu faresti meglio ad accettarlo. Dall'altra parte, da Tripoli, rinvigoriti dalla benzina che arriva dalla Turchia, non hanno nessuna intenzione di accettare il piano di pace e puntano anzi a Sirte, città storica, quella di Gheddafi, città che è il crocevia, o meglio l'apertura, la porta verso le installazioni petrolifere della Cirenaica. Cosa sta accadendo? Lo chiediamo immediatamente a Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio, ciao. Allora, come fotografare la situazione? È un cambio di paradigma, è un, come si direbbe in inglese, un turning point, un punto di svolta, e adesso l'ago della bilancia gira e pesa dalla parte di Al-Sarraj, o hai qualche dubbio? No, per certi versi è così, perché se guardiamo dall'ultimo mese sostanzialmente sono successe cose che hanno veramente fatto sì che sul campo si fossero rovesciate le cose. È meno di un mese fa, diciamo, il fatto che il governo di unità nazionale che risiede a Tripoli, presieduto da Sarraj, riusciva a controllare tutta la costa. Poi ha liberato l'aeroporto, infine ha liberato Taruna e si è proiettato verso il sud e si sta proiettando verso Sirte. Quindi è in una fase di recupero di terreno. Questo naturalmente è dovuto a due motivazioni. Una l'avevamo già vista e va avanti da un anno, è una ricomposizione, diciamo, interna, del quadro interno delle forze che sorreggono Sarraj, e questo va dato merito a Bashagha, il ministro degli interni, è riuscito a, come dire, costruire quasi un vero esercito, forse esagerato, sì. ma questo è il tentativo. E dall'altra parte naturalmente non si può negare l'aiuto turco, è stato essenziale, determinante, abbiamo visto quale incidenza ha avuto soprattutto dal gennaio scorso. Sì. E quindi ora ci troviamo in una situazione rovesciata nel quale Haftar non è più l'attaccante ma è il difendente, e si difende a livello militare ma anche a livello politico, perché ha diversi problemi. Quelli interni non sono ancora usciti del tutto, ma ci sono sicuramente, perché è difficile tenere comunque un fronte eterogeneo della Cirenaica, che va da diverse tribù, va da diverse famiglie importanti. Va dalla componente più radicale magdalita che ha all'interno del suo esercito, fino ai federalisti, quindi è difficile tenere presente, tenere insieme questo gruppo, ma soprattutto è anche difficile tenere presente, tenere insieme, diciamo, tutte le componenti esterne. Le sì. componenti esterne sono fatte della Russia, Wagner Group, che si è ritirato, non è stato colpito dai turchi. Abbiamo l'Egitto, come hai detto sostanzialmente tu, che sì. ha sempre avuto una posizione molto, molto guardinga nei confronti di Haftar nell'ultimo anno. L'attacco alla capitale non gli è mai particolarmente piaciuto, perché non stava negli interessi del Cairo andare a prendere Tripoli, ma certo. quanto difendere alcune posizioni. Quindi i messaggi sono stati mandati diverse volte ad Haftar, ma questo non ha voluto sentirla. Ma poi ci sono anche altri attori di cui si parla molto meno. Gli Emirati Arabi sono un attore che rimane dietro le quinte, molto silenzioso ma anche molto influente. Sì. Quindi è ancora un quadro molto difficile, difficile capire se solamente due o tre potenze riusciranno a sistemare questa situazione. Sì, nelle parole, nel commento e l'analisi di Arturo Varvelli, che dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma, ancora una volta forse il grande tema, quando si parla, si cerca di capire, di analizzare la Libia, cioè le dinamiche tribali delle famiglie allargate, quindi delle milizie ad esse collegate, se non riesce a tenerle insieme ci sono vari modi, uno è quello diplomatico, l'altro è il pugno di ferro, quello che faceva Gheddafi per esempio, non se ne viene a capo, e il rischio di una balcanizzazione, per dirlo in parole molto elementari, della Libia c'è sempre. Recentemente al-Sarraj si è recato, Arturo, ad Ankara e ha sostanzialmente promesso, e lo ha detto pubblicamente, alla Turchia che grazie a questo supporto avranno un ruolo nella ricostruzione della Libia. Bravi i turchi o non tanto bravi gli italiani, gli europei in generale, che stanno lasciando ad Ankara una posizione, un potere anche economico in Libia notevole, se le cose andranno così, naturalmente? Entrambi, perché Erdogan, in una maniera naturalmente nel suo stile spregiudicato, diciamo, si è avvantaggiato di tutta una serie di debolezze del fronte internazionale, dagli Stati Uniti che sono scomparsi dalla scena politica in quest'area di mondo, fino a un'Europa che naturalmente è presa d'altro in questo momento, coronavirus, ma anche dal fatto che è sempre molto difficile trovare una posizione comune, quindi diciamo siamo molto lenti, e poi non giochiamo sul piano militare, ma giochiamo sempre e unicamente sul piano politico. Quindi sì. quando sostanzialmente Sarraj si è sentito asserragliato da Haftar e pensava di essere colpito nella propria esistenza, giustamente ha fatto una richiesta di armi, di aiuto militare, e l'unico a soccorrerlo è stato Erdogan. Sì. Noi secondo me abbiamo sbagliato politicamente come Italia, ci siamo spostati, l'ho detto qua già sì. tantissime volte e l'ho scritto eccetera. Secondo me abbiamo lavorato e molto bene tra il 2015 e il 2016, quando il governo di unità nazionale è stato instaurato a Tripoli, l'abbiamo instaurato noi italiani in buona parte sì. e poi ci siamo un po' spaventati quando abbiamo visto che Haftar diventava più forte e più influente. Abbiamo cercato una posizione di equidistanza che non ci ha portato grande beneficio, non siamo diventati migliori amici di Haftar, però dall'altra parte invece ha cominciato a guardarci con sospetto il governo di unità nazionale di Sarraj, e così i turchi sono diventati loro i migliori amici. Si sono abilmente infilati in questo strano gioco di amicizie. Ricordiamo evidentemente le amicizie in questi campi, nel settore della diplomazia e della politica estera, possono durare davvero un battito di ciglia, però per il momento, ripeto, la Turchia se la sta giocando davvero bene. C'è un fattore, un'incognita però. Arturo Varvelli, lo ricordo, è un profondo conoscitore della Libia e analista del paese, adesso dirige l'ufficio di Roma dell'European Council of Foreign Relations. Arturo, i libici normalmente sono storicamente abbastanza allergici alla presenza straniera in territorio libico. Ecco, se fossero confermate le ambizioni di Erdogan di andare a ricostruire, aiutare a ricostruire il paese, pensi che potrebbero esserci qualche mal di pancia nella società, tra i militari libici? È una bella domanda, è anche molto difficile rispondere, perché dipenderà molto anche dall'atteggiamento dei turchi di Erdogan e da quanto questa presenza militare, io penso, durerà. Una presenza militare duratura viene ben vista nel momento della liberazione. Certo. Se questa si trasforma in occupazione, l'abbiamo visto in tutte le parti del mondo, con qualsiasi attore, non è solo una questione di occupazione degli Stati Uniti o dei russi, dei sovietici in altri tempi. Subito vi è la percezione di essere un fattore molto positivo, poi diventi realmente un occupante. Quindi secondo me c'è una necessità che il governo di unità nazionale si regga sulle sue gambe, e questa forse è anche la forza dell'Europa, che in qualche maniera può tornare in gioco, naturalmente non subito ma progressivamente. Sappiamo che non siamo una potenza occupante come Europa, non l'abbiamo mai fatto, come Unione Europea è molto difficile che utilizziamo lo strumento militare, possiamo essere di supporto nel momento politico, però il problema è che fin quando si tratta di un conflitto noi non tocchiamo palla da questo punto di vista, quindi dire se adesso i turchi verranno percepiti come una forza occupante è molto difficile, dipende da tutta una serie di evoluzioni sul terreno, che sono in buona parte anche non preventivabili al momento. In questo momento è chiaro che Erdogan e i turchi sembrano i grandi vincitori di questo conflitto, e hanno un debito di riconoscenza che stanno naturalmente già spendendo nei confronti dei libici della Tripolitania e di Tripoli. Certo. Dalla questione delle acque territoriali alla questione della ricostruzione economica, quindi sono loro sostanzialmente ora i vincitori. Grazie mille ad Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, buona giornata e buon lavoro, alla prossima. Buon pomeriggio a voi. Arturo Varvelli faceva anche riferimento a quel accordo, alla spartizione del Mediterraneo centrale, sostanzialmente questa fascia di sfruttamento economico, appannaggio esclusivo di Turchia e Libia, quella parte controllata dal governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, quello di al-Sarraj. Io direi facciamo la pausa adesso, andiamo a sentire come vanno le strade italiane e poi tutta l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, dedicata a chi? Indovinate un po', Donald Trump, stavolta, contro tutto. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, lo dicevo, vi porta negli Stati Uniti d'America, non prima di avervi dato conto di quelle che sono un po' di reazioni da parte vostra al 349-238-6666 sul capitolo libico. Qualcuno scrive: lei Musumeci continua a parlare di libici quando ormai è chiaro che i libici non esistono più. Così Gianluca da Bologna, immagino che voglia dire politicamente non esistono più, però ricordiamoci che al-Sarraj è pur supportato dalle Nazioni Unite, espressione comunque delle dinamiche, anche se tribali, libiche, e ha fatto un gran lavoro, soprattutto il suo ministero dell'interno, mentre dalla parte di Haftar ci sono un po' di malumori, un po' di mal di pancia. Poi detto ciò, ricordiamo sempre che la conferenza di Berlino i libici non c'erano, quindi da questo punto di vista sono pienamente d'accordo con lei. Un altro ascoltatore: è inutile dire che siamo sostituiti dai turchi, noi non avremmo mai messo i soldati, e i libici invece era quello di cui avevano bisogno. Così Enrico, che torna sul tema annoso di quella che è stata come la spregiudicatezza, la muscolarità, l'aggressività, ecco, mettiamola così, della politica di Ankara, cosa che non è mancata, sia dell'Italia che dell'Unione Europea, che peraltro ha scritto poche ore fa che il tavolo negoziale va aperto e la posizione dell'Unione Europea in Libia non cambia. Vi dicevo, Stati Uniti, Trump contro tutti. Nei giorni scorsi molti generali, molti ex segretari della difesa si sono espressi pubblicamente contro il presidente, usare l'esercito, non usarlo. Per altre notizie di questi ultimi minuti, la Guardia Nazionale si ritira da Washington, Trump avverte che comunque potrebbe rimandarla se ve ne fosse bisogno. Un po' di voci, la prima è quella di Mike Mullen. We have a military to fight our enemies. Abbiamo un esercito per combattere i nostri nemici, non la nostra gente. E i nostri militari non dovrebbero essere chiamati per combattere il popolo come se fosse un nemico dello Stato. Fight our own people as enemies of the state. Questo l'ex ammiraglio Mike Mullen. Il 2 giugno ha pubblicato un lungo editoriale sul sito di Atlantic dal titolo Non posso restare in silenzio. Anche nel corso del fine settimana si sono espressi altri voci, altri ex militari, ex segretari di Stato, un peso massimo come Colin Powell ha parlato alla CNN e ha detto una cosa esplosiva, perché ha detto che voterà per Joe Biden. Sentite cos'altro ha detto. Quando ho sentito alcune delle cose che diceva, mi è stato chiaro che non avrei potuto votare per questo individuo. A turbarmi innanzitutto è stato il cosiddetto Birders Movement, che era collegato al fatto che il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, era un uomo di colore. Inoltre, sono stato profondamente turbato dal modo in cui si comportava, insultando tutti, insultando le Gold Star Mother, insultando John McCain, insultando gli immigrati. E io sono figlio di immigrati. Insultando chiunque osasse esprimersi contro di lui. E questo è un pericolo per la nostra democrazia. È pericoloso per il nostro paese. E penso che quello a cui stiamo assistendo, il movimento di protesta più importante che abbia mai visto in vita mia, sia la prova che il paese sta diventando più saggio e che non tollererà più queste cose. Alla severa, dura presa di posizione di Colin Powell in questa intervista alla CNN, Trump ha risposto dicendo: Colin Powell, truffatore che ha molte responsabilità per il nostro ingresso nelle disastrose guerre del Medio Oriente, ha annunciato che voterà per un altro truffatore, Joe Biden l'ha addormentato. Powell non ha detto che l'Iraq aveva armi di distruzione di massa, si è chiesto Trump, non le avevano, ma siamo andati comunque in guerra. A questi si è aggiunto anche Mitt Romney, si è fatto un selfie mentre accompagnato dalla scritta Black Lives Matter, era in manifestazione a Washington. Cosa sta accadendo? C'è un fronte repubblicano che si sta in qualche modo rivoltando contro il presidente Donald Trump. Giro immediatamente la domanda a Andrew Spannaus, giornalista, saggista. Ricordo il suo libro Perché vince Trump, adesso peraltro possiamo dirlo, ma sussurrarlo, sta lavorando a un nuovo libro. Andrew, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. È successo qualcosa di che non ti aspettavi? Lo stesso Trump è riuscito a mettere una crepa nel fronte repubblicano, o mi sbaglio? Beh, questa crepa non è del tutto nuova. Colin Powell nel 2016 già parlava di Trump, appunto dicendo che non era possibile votare per Trump, però sicuramente l'uscita dei militari in questi giorni è stato un fatto notevole, perché e per Trump fa male questa immagine che i generali non sono con lui. La sua voglia di minacciare, di portare le truppe sulle strade degli Stati Uniti, che non ha fatto, però minaccia, offre di fare questo, si vuole profilare come il difensore dell'ordine, della legge, però non avere anche i militari dalla sua parte sicuramente gli fa male. Sì. Donald Trump, la cosa che sappiamo di lui, che non è, fa fatica a parlare a tutti, a unificare le persone, e quindi se anche quelli dalla sua parte, dei generali, non lo aiutano, non fa bene. Però non è la stessa cosa del partito repubblicano. Certo. Certo, nelle parole di Andrew Spannaus ancora una volta emerge il grande talento sicuramente dei comunicatori di Trump, dall'altra parte una comunicazione che tende a polarizzare e a dividere un po' di ascoltatori al 349-238-6666. Trump voleva impiegare l'esercito come fece Deng Xiaoping nell'89, ma che questo mi sembra un po' eccessivo in tutta onestà. Qualcuno mi dice che detesti Trump e fai ascoltare tutti i suoi oppositori, è evidente, ma a me pare strano che Trump non abbia il sostegno di nessuno. Tutti contro di lui sono, beh, chiaramente il titolo Trump contro tutti, che era viceversa, era chiaramente una iperbole, come soltanto noi giornalisti ogni tanto forse sappiamo malamente fare, ma detto ciò, che una serie di ex ufficiali generali di altissimo livello prendono le distanze da Donald Trump è certamente una notizia. Però per tranquillizzare l'ascoltatore do anche conto di quelli che sono gli ultimi sondaggi. Ipsos Reuters fotografa il distacco più ampio tra Biden e Trump, 47% contro il 37%, mentre CBS YouGov 47% Biden, 43% per Trump, quindi è evidente che c'è una forbice molto molto aperta. Torno da Andrew Spannaus, giornalista e attento osservatore della politica statunitense. Recentemente Foreign Policy recensiva un saggio, una saggiobiografia di Barry Gowen che andava a parlare di Kissinger e sostanzialmente celebrava questo momento dicendo: c'è bisogno del realismo di Kissinger e del suo mentore poi Morgenthau, l'urgenza feroce di una seria geopolitica oggi, l'anarchia globale mostra segnali qua e là, proliferazione, scusate, di rivalità di grandi potenze richiedono una diplomazia strategica, esperta e risoluta come quella che Kissinger ha fatto in pratica. È davvero così, Andrew Spannaus? Gli Stati Uniti hanno bisogno di una spregiudicata e cinica vera diplomatica politica estera in questo momento? Ma non so se sarebbe, e bisogna dire spregiudicata e cinica, sì, come modo di presentarla. Io credo che ci sia però un forte bisogno di un cambio di passo rispetto a qualche anno fa, e quel cambio di passo è già in atto, sì, e probabilmente sopravvivrà anche a Donald Trump se dovesse perdere a novembre. E la questione, citando Kissinger, è quello che conoscerai molto bene, è la Russia e il ruolo della Russia rispetto alla Cina. Cioè Kissinger aveva detto durante il 2016 la campagna che la voglia di Trump di migliorare i rapporti con Putin e con la Russia poteva essere utile per non spingere la Russia verso un abbraccio con la Cina, che invece sta diventando l'avversario, sì, principale degli Stati Uniti. Sì. E quindi evidentemente buona parte delle istituzioni americane non hanno accettato questa visione, e Russiagate ne è la dimostrazione di come si è fatto di tutto per bloccare le aperture di Trump, spesso con, stiamo scoprendo ancora sempre più dettagli in queste settimane e mesi, con azioni scorrette nei confronti di Trump istituzionalmente. Adesso però risale, cioè riesce ancora questa spinta, abbiamo visto un po' da Macron anche un po' di tempo fa, abbiamo visto al New York Times, cominciamo a vedere persone dicono forse questa strategia è giusta, e in questo senso diciamo è un cambiamento dall'idea insomma multilaterale della globalizzazione che non riconosceva insomma un ruolo, un certo ruolo un po' più, chiamiamolo spregiudicato, va bene, ma degli stati nazionali nel difendere certi interessi. Sì. La voce, l'analisi, il commento di Andrew Spannaus, giornalista, saggista, il suo libro è Perché vince Trump, adesso sta lavorando a una nuova pubblicazione che racconterà un po' queste elezioni, un po' Trump, un po' naturalmente Covid-19, per questo è evidente. L'ultima domanda, Andrew, ti prego di essere telegrafico che siamo quasi in chiusura. Secondo te il Partito Repubblicano ha bisogno di fare un lavoro identitario, di posizionarsi anche rispetto all'elettorato in maniera diversa dopo tutti i fatti, anche quelli di Floyd? Il Partito Repubblicano non deve identificarsi in una difesa della polizia, in una difesa, cioè in una critica alle proteste in generale. La maggioranza degli americani percepisce un'ingiustizia nei confronti dei neri, e non solo, anche un eccesso di violenza da parte della polizia. Sia i democratici che i repubblicani devono evitare di trasformare questa cosa in una battaglia razziale, una battaglia identitaria in quel senso lì. Sì. Non è il caso, è un momento in realtà di grande mobilitazione, in buona parte pacifica, e può essere utilizzato per fare passi avanti importanti senza cadere nelle wedge issues, cioè nella divisione. Certo, e invece utilizzando la politica, quella alta, quella con la P maiuscola. Grazie mille, Andrew Spannaus, per essere stato con noi. C'è una parola che mi arriva da Valeria Bernardi, e alla O, quella maiuscola. Che è il preludio ai ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo, ma soprattutto a voi che siete stati all'ascolto e avete animato il dibattito. L'appuntamento è domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.